Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Il mondo dei contratti potrebbe cambiare per sempre nei prossimi anni grazie all'introduzione della tecnologia blockchain, di cui abbiamo anche già parlato. In termini tecnici, una blockchain viene definita come un libro mastro decentralizzato e crittograficamente sicuro di transazioni. Si tratta in pratica di una base dati distribuita e pubblica, ma concepita in modo tale da essere resistente alle manomissioni, ed è al cuore del Bitcoin, che è la più nota e diffusa delle valute elettroniche. Ebbene, il problema di qualsiasi valuta è garantire che uno scambio di denaro sia certo, sicuro e irrevocabile, e la blockchain risolve questo problema tramite dei registri pubblici, delle liste di record condivise su internet tra un numero imprecisato di nodi, perché chiunque può diventare un nodo, e questo senza fare ricorso ad una banca centrale che certifichi, diciamo così, l'autenticità delle banconote, e senza terze parti come una banca o un circuito finanziario che facciano da garanti per la correttezza delle transazioni. Ebbene, il concetto di blockchain può essere utilizzata per, diciamo così, autenticare transazioni e contratti un po' di ogni tipo, ed è di questo che parliamo con Andrea Catozzi, che è responsabile innovazione di Capgemini Italia. Buonasera Catozzi. Buonasera. Dunque Catozzi, voi avete pubblicato un report sulle applicazioni in ambito finanziario degli smart contract, ma prima cerchiamo di capire che cosa sono questi smart contract. Uno smart contract è un software programmabile che viene eseguito nella blockchain che lei citava prima. Un esempio molto semplice di uno smart contract potrebbe essere un contratto assicurativo rappresentato all'interno di una blockchain in cui tutti gli aspetti di esecuzione delle regole, per esempio associate a un sinistro, sono automatizzate dal software in questione, mentre le informazioni che abilitano il pagamento, per esempio del sinistro, sono recuperate direttamente dalle entità al contorno e non da periti o da altri attori umani. Quindi diciamo che è una specie di contratto elettronico che, come tutti i contratti, ha delle parti che si mettono d'accordo per fare qualcosa quando si verificano certe condizioni, no? Per esempio, ti rimborso la sostituzione del paraurti perché il perito mi ha dato l'ok, diciamo così. Allora lei dice, quando arriva questo perito dice ok, qui ho verificato che la situazione è esattamente questa, tutto quello che deve succedere a valle a questo punto avverrà automaticamente. È questo il concetto? È uno dei concetti, con la differenza rispetto a un processo tradizionale, magari supportato da automatismi informatici tradizionali. Perché questo si potrebbe fare, lei dice, no, anche con un sistema informatico tradizionale, non serve la blockchain o lo smart contract. Certamente. La differenza è che in questo caso le regole di business associate al contratto sono verificabili dal cliente, se vuole, se ne ha la capacità o se lo chiede a un suo consulente, e non è possibile da parte della compagnia in qualche modo non soddisfare il contratto così come è stato sottoscritto. Anche solo ritardare il pagamento, banalmente, no? Per tenersi i soldi in cassa per un po' più di tempo. Adesso dico sì, una cosa stupida. Un problema di liquidità, esattamente, assolutamente. Quindi le regole sono fissate sulla pietra, è come se non fossero modificabili nemmeno da chi originariamente ha scritto il contratto. Ok, quindi insomma è un fatto di trasparenza essenzialmente, questo è il vantaggio dello smart contract. Trasparenza, fiducia, nel caso specifico il cliente potrebbe preferire un contratto di una compagnia che ha implementato questo sistema rispetto a un'altra più tradizionale, proprio per una questione di fiducia, di trasparenza nei suoi confronti. Non solo, ci sono anche degli aspetti di velocizzazione dei processi e di risparmio sui costi, che ovviamente sono molto interessanti da tutti i punti di vista, per la compagnia ma anche per il cliente. È certo. Senta, quali sono invece gli aspetti, le chiedo, da mettere a punto perché questi smart contract possano diventare una realtà quotidiana? Allora, un tema normativo legato al fatto che questi smart contract non sono in questo momento classificabili in nessuna, diciamo, disciplina normativa giuridica. C'è un tema di carenza di competenze, si tratta di avere competenze non solo tecnologiche ma anche legali all'interno magari delle stesse figure professionali. Certo. Ci sono tematiche più prettamente tecnologiche legate alla estrema giovinezza delle piattaforme, Ci sono poi problematiche un po' più tradizionali di privacy e di security, legate anche al tema normativo che dicevamo prima, che devono essere indirizzate. Ok, d'accordo. Però, insomma, quale potrebbe essere una tempistica ragionevole per vedere le prime applicazioni? Beh, intanto c'è il Bitcoin, quello c'è. Assolutamente, il Bitcoin è uno smart contract che svolge una specifica funzione. Però applicazioni di smart contract in ambiti, diciamo, più estesi si prevede che ci saranno nei prossimi 2 o 3 anni. Però è questo il momento, quindi 2017, in cui le tecnologie, le sperimentazioni devono essere portate avanti, così come gli accordi, così come gli interventi normativi. Se si riesce a fare tutto questo nel corso dell'anno, nel corso dell'anno prossimo, il biennio successivo sarà quello dell'esplosione degli smart contract. Va bene, grazie per intanto Catozzi, ma noi ci risentiamo domani per parlare delle applicazioni dello smart contract nell'ambito dei servizi finanziari. Grazie. Appuntamento domani.